get shit back with. You better get bitch and raise it. Shit, put some dub on the blue stove. Put some back there, get some bell. I found some dub in the bathroom stove. I found it, broken in the road. Shit, put some dub on the bathroom stove. Shit, put some back there, get some bell. I found some dub on the bathroom stove. E adesso ci sarà un pezzo che noi riteniamo molto importante, non solo per il sound che propone, ma anche perché parla di tematiche abbastanza importanti, soprattutto per quanto ci riguarda. Nasce dalla visione che abbiamo dei migranti che arrivano qui in Italia, magari partendo dai loro dai loro paesi perché disastrati, cercando una condizione migliore, e vengono qui trattati come bestie, sottopagati, e tutto ciò non è giusto. Per questo ci siamo sentiti in dovere di citarli in un nostro brano. Questa è Banana Canyon, Genzano! Saltate dal fondo sul palco che non esiste! Down on da stereo va bien da canio ma va questo pop da bien da canio ti punta sta banana e mai banana na na na na na na na na on da stereo va bien da canio ma va questo pop da bien da canio ti punta sta banana e mai banana na na na na na na na on da stereo. Quindi noi siamo qua per suonare un po' di musica, siamo un po' qua a portarvi un po' di funk. Voi tutti quanti dovreste un po' farvi di skunk. Supportiamo l'underground e supportiamo qua il punk, insieme con tutte quante le nostre rabbie. Mo improvviso per dire che devono aprire gabbie. Non paghiamo niente di quello che poi noi stessi usiamo. Noi sfruttiamo Sammy per sì, ma perché poi scappiamo fuori da sto cazzo di sistema? Ho un peso troppo grosso che sulla schiena ci sta a pesare mentre faccio una pera, ci sta a far crepare qualcuno di spera. Qua in questo mondo a tondo io sento sempre la stessa merda di sottofondo. Queste sono le nostre improvvisazioni, fuori i profitti dei nostri territori, fuori e basta con le devastazioni. Siamo qua, vogliamo crimi migliori, lo sappiamo, attitudini culinaria, tutti quanti culinaria, è ora di cambiare aria. Dai, è totalmente freestyle original. We angry, acting like a fool, drunk and dead, the motherfucker. Pop that smoke, now we can live. Me and my homie got hot on burn. Let's out, come on, everybody now. We angry, acting like a fool, drunk and dead, the motherfucker. Pop that smoke, now we can live. Me and my homie got hot on burn. Let's out like a kangaroo. Take your home, baby, get your groove. Let me break the game, we got my head for now. Like you say, gonna make me come. I'm out of cheer, bit of dust in my mouth. And all night we lose in our lust. My hair is out on your primitive blues. Then I try to lift some of your baby blues for just one last shot. We'll be right back. siamo i fottuti cazzo di Motherland. Del reggae tra noi. Oh yeah. Una fottuta gemma. Vabbè. Oh yeah, stand up for your right. Get up, stand up. Oh. And don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Cadere a terra nel pogo, così dovete fare, sta musica è per voi, per tutti quanti voi qua, sul fondo, presenti, sul palco, assenti. Ringraziamo Radio Default, fatto un cazzo se qualcuno facciamo schifo, perché noi ti entriamo dentro come il tifo, e poi dopo è inevitabile che ci fai il tifo. Mo Motherline, qua c'è Nicola con la sua chitarra, ti spiega come funziona e botte esplosive come un petardo, alla batteria il fottuto Edoardo, ah, come un acido lisergico, sta suonando il basso, sto fottuto Sergio bro, e questo fumo mo mi sembra incenso, quindi presento pure io mi chiamo Vincenzo. Il mio amore è immenso per voi, che voi siete punk o fottuti b-boy, a me non interessa questa roba grezza, un qualcosa che gira dentro di me come la monnezza, che non ci piace, non vestiamo Versace, queste mie rime sono come carne sulla brace. Abbiamo ancora un po' di musichetta. Sul primo chakra, quello della base, la parte istintiva dell'essere umano, la zona della sessualità, assertività e della aggressività, la capacità di esprimere quello che sia a te. Wanna make the shake of the generate, hey, very bad that you mistake it, go to let it celebrate, and just give it away from every figure, every fear, every middle, I am here, singing all the souvenir, I'm a triple in the beer, hey, then I can't get beer, probably freak, get rare, how to break all shit. We'll be right back. senza... Chi cazzo siamo noi? Siamo i cazzo di Motherline. Noi invadiamo i vostri gabinetti appena vi scappa. Siamo nei vostri piatti di spaghetti. Siamo dappertutto sul parco senza la giacca. Genzano! Fatevi sotto al cazzo di parco! La situazione è bellissima, grazie a tutti gli organizzatori. Grazie ragazzi, come dice il manifesto là sopra. Esistiamo grazie a voi. E grazie al pubblico qua davanti, anche voi che siete distanti, fatevi più avanti, venite qua in mezzo. Ballate con noi, fate che cazzo volete. Dopo il concerto Nicola si offre sessualmente per chiunque ne abbia bisogno. Se qualcuno è interessato alla merda che facciamo, abbiamo un numero limitato di demo qua dentro. E ve le diamo gratuite a sto giro. Giusto perché vi amiamo e questa è una situazione dell'amore e di condivisione. Quest'ultimo pezzo è Bon Voodoo. Yeah! Abbiamo finito con la musica, ma rimarremo qui per portare avanti questa serata per la quale ci abbiamo messo tutto l'impegno che potevamo, tutto il cuore, ci abbiamo messo tutto perché è stato davvero importante stare qui, soprattutto per la causa, perché le aggressioni fasciste non si devono ripetere mai più fuori fascisti da Genzano e da tutti i territori possibili e immaginabili. Non li vogliamo più neanche su Marte. E soprattutto si è aggiunto anche un altro motivo stasera, e ci tenevamo tanto a dedicare dalla prima all'ultima nota a un fratello che non abbiamo avuto la fortuna e il piacere di conoscere, ma che sicuramente sarebbe stato qui a ballare insieme a tutti noi e avrebbe portato avanti questa serata con tutto l'impegno possibile. Ciao Doria, dai forte!